Alice Tambourine Lover, il duo che abbiamo presentato prima del pezzo e che abbiamo anticipato essere con noi qua ai microfoni. Quindi ciao Gianfranco. Ciao a voi. Allora, partiamo subito dalla prima domanda. Come mai vi chiamate così e quando è nato il vostro duo, insomma? Allora, noi nasciamo ufficialmente verso il 2012 e comunque io e Alice suoniamo insieme sin dal 95 in una band che si chiamava Helix. È una band con cui abbiamo girato tantissimo, abbiamo girato tutta l'Europa, abbiamo fatto festival, insomma eravamo abbastanza impegnati, e dopo anni di esperienza con la band diciamo che è stata un'evoluzione abbastanza naturale. Il nostro chitarrista si è trasferito a Londra, il batterista se n'è tornato in Sicilia e praticamente siamo rimasti noi due, che siamo anche una coppia, siamo sposati, e abbiamo deciso di intraprendere questo progetto più acustico, cosa che tra le altre cose non avevamo mai fatto, perché avevamo sempre composto in saletta con tutti gli altri, con la band, quindi è stata la prima volta che ci siamo cimentati in qualcosa appunto che nasceva soltanto da noi due, semplicemente chitarra e voce, ed è nato il progetto. E Alice Tambourine Lover, il nome ha a che fare con il tambourine che Alice suona con il piede, praticamente è un cembalino che lei con la band suonava con la mano e adesso lei suona con il piede da seduta, e praticamente diciamo che ci sono varie interpretazioni, però l'amante del tamburello di Alice diciamo che sarei io, ecco, più o meno. Giustamente, siete sposati, mi sembra logico. Ecco, a maggior ragione a proposito di questa citazione riguardo il tamburin, che genere musicale fate? Ma è difficile, sai, per chi suona è sempre un po' complicato darsi delle etichette, non saprei. Io vedo che spesso quando siamo in giro, sai, mi piace guardare come pubblicizzano le nostre date, vedo che molti scrivono psych blues, psych folk. Sinceramente chi ci conosce, chi ci ha visto dal vivo sa che insomma nei nostri brani c'è un po' tutto, un po' chiaramente proveniamo da tutto ciò che è la cultura rock anni 60-70. Però diciamo che ci sono delle fortissime influenze di blues, di soul e di folk, sicuramente. Certo. Allora, parliamo un attimo dell'album nuovo che avete appunto pubblicato, se non sbaglio, un mesetto fa, e di cui abbiamo fatto ascoltare prima il singolo Dance Away. Sì, siamo contentissimi di quest'album, è uscito anche questo come gli altri per la Godown Records. Stiamo iniziando a promuoverlo, stiamo avendo delle recensioni veramente fantastiche, siamo contentissimi. È uscito principalmente in vinile, siamo molto legati appunto al vinile e stiamo iniziando a promuovere, già insomma stiamo già facendo un bel po' di date in giro, e tra le altre cose domani lo promuoviamo, c'è uno showcase qui a Bologna alla Gallery 16 in via Nazario Sauro. A proposito invece dell'album nuovo, facciamo un piccolo passo indietro. Questo non è il primo album che No, questo è il nostro quarto album, sì. Ecco, che differenze ci sono tra l'album attuale che avete appena pubblicato e quelli precedenti? Differenze, somiglianze? Sì, diciamo che ci siamo, è stata un percorso abbastanza naturale. Quest'album è forse più dilatato, un po' più sognante, un po' le canzoni sono veramente più semplici, più fruibili, e i suoni sono un po' più liquidi, diciamo. Per noi, sai, io sono affezionato a tutti i nostri album, quindi per me è difficile dare un giudizio, però vedo anche dalle recensioni che ci hanno fatto che quest'album forse ha raggiunto un po' più di persone come proprio fruibilità delle canzoni. D'accordo, allora se volessimo in qualche modo incentivare gli ascoltatori ad ascoltarvi, appunto a poter reperire il vostro album, seguire magari le date che avete in programma, dove vi possono reperire appunto? Sì, noi siamo su tutti i maggiori social, siamo su Facebook, siamo su Instagram e poi chiaramente CD Baby, Bandcamp, siamo su Spotify e dal vivo, insomma, sia su Instagram che su Facebook potete trovare tutte le nostre date. E comunque, ripeto, domani siamo a Bologna, alla Gallery 16 in via Nazarosauro. E poi siamo il 14 di giugno, abbiamo avuto appunto la fortuna di aprire apriremo per Fantastic Negrito alla Rocca Malatestiana di Cesena, all'interno di una manifestazione che si chiama Cielo Aperto, e questo il 14 giugno. E mentre invece il 28 giugno suoneremo nell'Into the Wood Festival a Carpegna, in provincia di Pesaro Urbino. Anche quella è una situazione bellissima, perché è un festival che si svolge in un bosco e ci si può accampare con le tende, è una situazione veramente bella, veramente bella. Perfetto, allora noi ti ringraziamo ancora una volta, Gianfranco, per essere stato ai microfoni con noi. Vi ricordiamo, vi invitiamo anzi ad ascoltare Down Below, l'ultimo album uscito degli Alice Tambourine Lover, e vi lasciamo al loro quarto brano di questo album appena citato, dal titolo Follow. Grazie ancora, grazie Gianfranco. Grazie ancora, ciao. Grazie a voi, ciao. Grazie.